sono solo due le cerimonie istituite da Gesù, la cena del Signore e il battesimo. Queste cerimonie vengono chiamate anche sacramenti, parola che esprime il concetto di un segno cerimoniale di una cosa sacra. Per quanto questa parola è molto ambigua per chi non è cattolico romano, è comunque accettabile perché in effetti sia la cena del Signore che il battesimo sono due segni esteriori di una realtà interiore. Sono gli uomini religiosi che hanno fatto di questi due comandamenti dei poteri per comunicare delle virtù. In effetti, per il cattolicesimo romano, mediante il battesimo si diventa figli di Dio, mediante la cena del Signore si riceve Cristo, mentre essi sono solo delle cerimonie per ricordare e non per comunicare delle virtù. Cosa ricordano questi due segni o sacramenti? Che significato hanno la cena del Signore e il battesimo? La cena del Signore ricorda la morte e la resurrezione di Cristo Gesù, mentre il battesimo ricorda la morte e la resurrezione del credente. Mentre la cena del Signore, che consiste nel prendere il pane e il vino in memoria della morte e resurrezione di Cristo, è subito comprensibile, il battesimo, che ricorda la morte e la resurrezione del credente, è un segno meno comprensibile perché non è molto evidente cosa si intenda utilizzando in questo caso i termini morte e resurrezione. Eppure il battesimo con questo significato era uno dei temi della teologia dei primi cristiani. Così si esprimeva l'Apostolo Paolo. Che diremo dunque? Rimarremo forse nel peccato affinché la grazia abbondi? No, di certo. Noi che siamo morti al peccato, come vivremmo ancora in esso? O ignorate forse che tutti noi, che siamo stati battezzati in Cristo Gesù, siamo stati battezzati nella sua morte, siamo dunque stati sepolti con lui mediante il battesimo nella sua morte, affinché, come Cristo è stato risuscitato dai morti, mediante la gloria del Padre, così anche noi camminassimo in novità di vita. Perché se siamo stati totalmente uniti a lui in una morte simile alla sua, lo saremo anche in una risurrezione simile alla sua. Sappiamo infatti che il nostro vecchio uomo è stato crocifisso con lui affinché il corpo del peccato fosse annullato, e noi non serviamo più al peccato. Infatti colui che è morto è libero dal peccato. Ora, se siamo morti con Cristo, crediamo pure che vivremo con lui, sapendo che Cristo, risuscitato dai morti, non muore più. La morte non ha più potere su di lui, poiché il suo morire fu un morire al peccato, una volta per sempre, ma il suo vivere è un vivere a Dio. Così anche voi fate conto di essere morti al peccato, ma viventi a Dio, in Cristo Gesù. Romani 6:1-11. In questo brano Paolo si riferisce esplicitamente al battesimo e usa questa parola per tre volte. Perciò, se non comprendiamo il significato della parola battesimo, siamo incapaci di comprendere il suo discorso. Che significato ha la parola battesimo? O meglio, quale significato gli attribuivano i primi cristiani? Si impone questa ultima domanda perché con il passare i secoli le parole cambiano di significato. Oggi si battezzano le navi, le strade, con il significato di inaugurare. L'oste battezza il vino con il significato che lo allunga con l'acqua. Vi è pure il battesimo di sangue, cioè colui che muore per la sua fede. Difficile quindi con questa cultura comprendere ciò che l'Apostolo Paolo intendeva dire 2000 anni fa, scrivendo che il credente è battezzato in Cristo e battezzato nella sua morte. Dato però che il significato del termine battesimo è immergere, tuffare, Paolo ha detto che il credente è stato immerso in Cristo, cioè è morto o seppellito con Cristo. Perciò il battesimo cristiano non è altro che un'identificazione con la morte di Cristo. Il battesimo è una bara. In effetti, al battesimo, l'atto di immergere un credente totalmente nell'acqua per qualche istante è un gesto che simboleggia il suo totale seppellimento. Se il battesimo cristiano simboleggia la morte del credente, di che morte si parla dato che il credente è ancora vivo? Poiché la morte del credente, simboleggiata dal battesimo, è simile a quella di Cristo, è opportuno chiederci quale morte ha subito Cristo Gesù. Come è morto Gesù? E, morto in battaglia, in un letto, Gesù è stato messo in croce. E il credente è chiamato simbolicamente a morire ogni giorno in quel modo. Prima di morire Gesù, Senza illudere nessuno aveva lasciato degli avvertimenti. Gesù diceva poi a tutti: se uno vuol venire dietro a me, rinunzi a se stesso, prenda ogni giorno la sua croce e mi segua. Perché chi vorrà salvare la sua vita, la perderà, ma chi avrà perduto la propria vita per amor mio, la salverà. Luca 9, 23-24. La croce è simbolo di uno stato di totale annientamento e umiliazione nel quale qualcun altro ti mette e nel quale ti mette a braccia aperte. È simbolo di totale impossibilità di difenderti. La croce è simbolo di sofferenza perché in quella posizione non puoi fare proprio nulla per alleviare le tue sofferenze. Colui che segue Cristo deve accettare non solo le gioie di Cristo, ma anche il disprezzo, l'umiliazione e la sofferenza da lui subiti. Come abbiamo considerato, il battesimo non parla solo di morte, ma anche di resurrezione. Infatti, Paolo ricorda che come Cristo è risorto così, anche il credente che è stato fatto partecipe della morte di Cristo è pure partecipe della resurrezione affinché cammini, come si è espresso Paolo, in novità di vita. Questa forse è una delle espressioni più belle per definire il cristianesimo. La vita cristiana non è il miglioramento di quella precedente, non è un'aggiunta a quella già trascorsa, ma è una esistenza tutta diversa, è una vita nuova. La vita cristiana è prima di tutto una vita perché è un rapporto di comunione con Dio, è un'armonia con il Creatore e con tutto ciò che ci circonda. È nuova perché non è vissuta a livello umano o con le capacità umane, ma è condotta dallo Spirito Santo. Sono pochi coloro che hanno compreso questo aspetto, perché se così non fosse ci sarebbe molto meno orgoglio e fiducia in se stessi tra coloro che si professano cristiani. Il battesimo cristiano è dunque un segno di una nuova vita prima di tutto interiore. Si hanno nuovi desideri per lo Spirito Santo, si ama la santità, si hanno nuovi obiettivi. Prima si era attesi a soddisfare la propria volontà, ora si cerca la volontà di Dio. Prima si cercava ciò che era vantaggioso, ora il regno di Dio ha la precedenza. Prima si amava il peccato e peccare, ora si odia tutto ciò che è contrario al volere di Dio. Il battesimo ci parla di una vita rivoluzionaria, perché rivoluzionario è il regno di Dio. Mentre con il battesimo in Cristo il credente entra nel regno di Dio, cioè fa parte della Chiesa universale, con il battesimo in acqua il credente entra ufficialmente a far parte di una Chiesa locale. Alcuni, non avendo compreso questo aspetto del battesimo, soddisfatti di aver creduto e di essere diventati figli di Dio, non chiedono il battesimo in acqua, ma tale atteggiamento è una mancanza di sottomissione al volere di Cristo. L'ordine di Gesù prima di salire in cielo è stato quello di battezzare tutti coloro che avrebbero posto fede in Cristo, e chi desidera compiere la volontà di Dio è chiamato ad ubbidire anche a questo comandamento. Altri non chiedono il battesimo in acqua perché non si sentono pronti, quasi che il battesimo fosse un atto riservato ai più bravi, ma il credente accetta il battesimo cristiano in acqua come un atto di ubbidienza e per identificarsi con coloro con i quali condividerà la fede. Al battesimo cristiano non bisogna dare troppa importanza, ma neppure svalutarlo. Gli estremi non piacciono a Dio. Il battesimo cristiano in acqua è dunque un segno di sottomissione a Dio e di identificazione con il popolo di Dio. Esiste ancora un altro aspetto non meno importante, ed è quello che il credente con il battesimo testimonia di vivere per servire il prossimo. Come Cristo ha compiuto del continuo la volontà del Padre servendo gli uomini, così anche il credente deve vivere per Dio servendo, e principalmente coloro che sono figli di Dio. La vita nuova in Cristo non è solo il passaggio dal peccato alla santità, ma anche dall'egoismo all'altruismo. Come il credente, prima di conoscere Cristo, prestava il suo corpo al peccato e all'egoismo, ora offre il suo corpo in sacrificio vivente al servizio della giustizia e del prossimo. Con il battesimo il credente annuncia la sua consacrazione ad una vita di servizio, servizio che si può esprimere sia in una chiamata a obbedire, sia in un ministero di conduzione. Nella Chiesa di Dio vi sono coloro che conducono e altri si lasciano condurre, ma mentre nella vita precedente alla conversione comandare e servire erano ruoli utilizzati per avere autorità e soddisfare le proprie voglie, Nella Chiesa di Dio qualsiasi ruolo è un motivo di servizio. Chi è alla guida lo sarà con mansuetudine, chi serve lo farà senza comandare. Questi sono alcuni aspetti del significato del battesimo cristiano, aspetti che non dovrebbero mai essere dimenticati da chi lo riceve. Purtroppo la fedeltà agli impegni presi è uno degli aspetti più rari, al punto che il profeta Geremia si chiede: «O Eterno, i tuoi occhi non cercano forse la fedeltà?» Geremia 5, 3. Il battesimo cristiano è dunque un segno di realtà spirituali, ma è pure una sfida di fedeltà. A volte un battezzato può perdere lo slancio iniziale, lungo il cammino irto di mille difficoltà sarà tentato di mettere i remi in barca e lasciarsi andare dalla corrente dell'ingiustizia, ma con un atto di volontà dovrà riportare alla mente l'impegno e la sfida presi nel giorno della sua resa a Cristo e confermati con il battesimo in acqua, perché la sua perseveranza sarà il segno esteriore di un sincero atto interiore. Il battesimo cristiano in acqua non è dunque un punto di arrivo, ma un trampolino di lancio per glorificare Dio con la propria vita. Così, mentre il battesimo in Cristo è un'esperienza spirituale che avviene automaticamente al momento della nuova nascita, il battesimo in acqua è la scelta deliberata di identificarsi con il popolo Dio, è la ferma volontà di servire Cristo servendo il prossimo, è la sfida di una vita nuova e la risoluta decisione a rimanere fermi fino alla fine. E questo non è poco. Ehi, quel tanto che basta. Marzo 2006. Ellero.